Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata, veramente una bella giornata, visto che sembra che il sole sia tornato. Ebbene, oggi parleremo di vino, parleremo di un qualcosa di particolare, parleremo di solfiti nel vino. Bene, voglio subito, diciamo, aggiungere questo, che parleremo di aggiunta dei solfiti a quelli che naturalmente produce il vino. Quindi si sa che il vino può produrre naturalmente una quantità di solfiti che certe volte possono essere anche abbastanza importanti, come mi segnala il sempre attento Maurizio Gili sul sito Gastronauta. Bene, parleremo di questo perché viaggiando così tra gli stand del Vin Italy ho visto per la prima volta un numero impressionante di stand dove c'era scritto non contiene solfiti, quindi è già scorretto, perché i solfiti comunque il vino li contiene. Però mi ha impressionato la quantità e mi sono chiesto, moda? Cioè, già che si parla da un po' di tempo, quindi si va su questa direzione a mille all'ora? Bene, fino a qualche anno fa però tutti sostenevano che non si poteva produrre un vino senza solfiti aggiunti. Quindi cosa è successo? E allora voglio iniziare questa chiacchierata a darvi subito il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. E voglio iniziare con Angiolino Maule. Bene, Angiolino Maule è presidente di Vinnatur, l'associazione dei viticoltori naturali europei addirittura. Quindi, buongiorno Angiolino. Buongiorno a tutti, Angiolino, grazie per questa opportunità, Davide. Buongiorno, ma cosa è successo qui? Tutti producono senza solfiti aggiunti, ma qualche tempo fa non si diceva che assolutamente era impossibile. Tu cosa ne pensi di questo così grande boom? Io dico come la vedo io. Certo. Produrre vini senza solfiti vuol dire fare vini da terroir, cioè il massimo rispetto del territorio, e non cambiare le caratteristiche organolettiche di un vino con l'aggiunta dei solfiti. In più, viviamo in un mondo di allergici, produrre vini senza solfiti non è una moda, ma è un'esigenza che sta venendo sempre più forte. Noi dell'associazione Vinnatur facciamo le analisi dei solfiti, ma anche dei pesticidi. Dei nostri associati l'anno scorso 135 analisi, 55 erano senza solfiti, e questo è stato un bellissimo risultato, perché nei primi anni che noi facevamo queste analisi i risultati erano molto più bassi, eravamo in 12, in 13. Ecco, Angiolino, abbiamo fatto salti. Ecco, proprio questo ti volevo dire, ma insomma non è una moda, certo, ma perché il mal di testa di certi vini c'è sempre stato, questo problema c'è sempre stato, perché in questi ultimi 2-3 anni è venuto questo boom? Forse perché la domanda forte del consumatore, o forse perché molti produttori si sono resi conto che bisognava andare su questa direzione? Tu cosa ne pensi su questo? Ecco. Ma io ogni tanto guardo la mia cantina, che costa un sacco di soldi, e dico, me l'ha pagata gli allergici sta cantina qua, perché il mio lavoro, il mio obbligo è soddisfare le esigenze di questi signori qua, che purtroppo non possono bere vino, non possono bere solfiti, perché li fa il famoso cerchio della testa, ma tutto il resto che li comporta nelle cellule del corpo. Non è soltanto il cerchio della testa, è soltanto un sintomo questo qua. Intendo però comunque, Davide, fare chiarezza su questa storia, che penso che il consumatore abbia diritto di saperlo. Intendo senza solfiti, ma non perché si è inventato un'altra diavoleria che sostituisca i solfiti. Su questo poi vedremo. Vai avanti. Sì, intendo senza solfiti perché la conoscenza, l'intelligenza e la conoscenza ha portato a far sì che si conosca sempre di più, che non si è mai arrivati a conoscere del tutto, questo mondo complesso che è lieviti e batteri. Come associazione da 5 anni abbiamo coinvolto il mondo scientifico, abbiamo coinvolto la biologia molecolare, che ci sta aiutando a conoscere sempre di più e ad aiutarci a fare vini salubri e equilibrati. Ci ha praticamente addestrato a equilibrare il nostro lavoro. Bene, grazie Angiolino, così abbiamo già tutta una serie di spunti secondo me molto importanti. Bene, Leonardo Valenti, abbiamo con noi Leonardo Valenti, buongiorno Leonardo Valenti, è un enologo nonché professore all'Università di Milano. Leonardo, ma un tempo si diceva che, no, ti ripeto la stessa cosa, non era possibile fare vini senza solfiti. C'è chi sostiene che c'è già stata inventata qualche diavoleria per togliere i solfiti e aggiungere qualche cos'altro. Ma cosa c'è di vero su questo? Ma cioè, anzitutto buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Vedi, queste parole che diceva Maule sono corrette, però il punto fondamentale è che questa problematica del solfitto va inquadrata in un sistema diverso, per cui non è solo quelli che sono allergici o che hanno male di testa, bisogna inserirlo in un contesto più ampio, che è quello legato alla sostenibilità, alla salute del consumatore, in tante altre situazioni. Poi è vero che in qualche modo la ricerca si porta avanti e trova molecole alternative, ma non ha senso questo, perché torniamo lì, perché togliamo i solfiti e inseriamo qualcos'altro. Ecco, non è da lì che si deve iniziare a discutere. Ecco, questo è il punto. Ecco, questo boom, cioè, è stato perché appunto si sono trovati altri mezzi, oppure tu pensi veramente che la domanda del consumatore sia stata talmente forte da far sviare così molti produttori? Io penso che sia un'onda lunga, nel senso che è partito con pochi e poi questa cosa ha fatto breccia all'interno un po' a tutti i consumatori. E sono d'accordo con Maule quando parla dei problemi di allergie, ci si trova anche noi in quelle situazioni, che si assaggia vini che se bevi mezzo bicchiere in più, anche se non si dovrebbe, ti trovi con dei problemi. Per cui penso che noi per primi tecnici, noi per primi produttori ci stiamo accorgendo che in qualche modo bisogna andare in quella direzione. Diminuzione comunque il più breve tempo possibile dei contenuti di solfiti. Lì poi si può mettersi a discutere, non so, con l'agricoltura biologica, che influenza, ha fatto un protocollo che in qualche modo prevede ancora dei livelli di solfiti che sono molto alti. Sono d'accordo, sono d'accordissimo, non d'accordo. Per cui il problema grosso è che noi però viviamo come comunità europea e a contatto con i tedeschi, con i francesi, che le popolazioni del nord usano la solforosa in maniera importante. Noi abbiamo meno problemi di questo tipo. Bene, grazie a Leonardo Valenti, passo la linea alla regia. Grazie, ricordo, numero verde 800 24 0024, torneremo fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare appunto di vini in particolare, stiamo parlando di solfiti, diciamo, di questo grande movimento. Abbiamo sentito parlare di onda lunga, quindi onda lunga, speriamo veramente che si vada su questa direzione. Già ci sono degli SMS che così denunciano mal di testa quando bevono troppi bicchieri, ad esempio, di vini bianchi. Insomma, vabbè, questo ormai è arcinoto. Io dico che molte volte, forse oltre diciamo al vino, incide anche la quantità che si beve. Abbiamo un radioascoltatore, Franco dalla provincia di Milano. Buongiorno Franco. Buongiorno a tutti, salve a tutti. Prego. Ascolti, mi scuso della mia ignoranza, ma qualcuno dei suoi esperti mi sa dire che cosa sono i solfiti? Ma... cioè, è vero, una gran bella parola, ma è cioè, legata al mal di testa, non lo so, ma cosa sono fondamentalmente? No, beh, ora non esageriamo, non è che così automatico, però guardi, abbiamo un maestro con noi, abbiamo Riccardo Cottarella. Buongiorno Riccardo. Ciao Davide, come stai? Bene, senti, ma mi rispondi tu a questo Franco da Milano che giustamente chiede: cosa sono i solfiti? I solfiti sono una sostanza che troviamo anche naturalmente nel vino per l'attività dei lieviti, che nel loro svolgimento producono una certa quantità di solfiti, e poi ci sono una quantità aggiunta più in diverse dosi praticamente che hanno diversi scopi. La solforosa, i solfiti, è un antisettico, un antibatterico, e quindi funge essenzialmente da antiossidante nei vini. Grazie Riccardo di questa risposta. Bene, così abbiamo chiarito anche un altro punto. Semplice, eh? Sì, a te volevo chiedere un discorso che abbiamo iniziato tanti anni fa assieme, su questo dei solfidi. Qualcuno dice che ora, io ho detto prima che sono rimasto sbalordito da vedere in tanti stand al Vinitaly scritto vino senza solfiti, e mi chiedevo cosa sta succedendo, cioè c'è una rivoluzione nel mondo del vino in questa direzione? Intanto Davide, diffidate, perché sarebbe una falsità, assente, SO2 assente, perché comunque è sempre presente, sempre. Certo. E nel 99% è presente sopra i limiti legali di 10 mg litro che ti consentirebbe di scrivere senza solfidi, perché comunque i lievi producono il 99% dei casi sempre più di 10 mg litro, quindi puntualizziamo questo qui. Per quanto riguarda la tua domanda, Davide, la scienza va avanti in tutti i settori, non solo in quelli del vino. Rispetto alle nostre prime diatribe con quel simpaticissimo e bravissimo professore toscano, sono passati secoli, non anni, secoli sono passati per quanto riguarda la scienza. Noi, anche noi, abbiamo messo a punto un sistema che non prevede aggiunta di SO2, ma nel nostro team c'è, a parte io come enologo, c'è un agronomo, c'è un meteorologo, c'è un biologo molecolare, c'è un fisico, perché se noi conosciamo il percorso del vino, il percorso naturale della trasformazione dell'uva in vino, sappiamo anche quando, come e se dobbiamo intervenire. Quindi non sono frutti di magheggi, come ho sentito, di altre diavolerie, è che conoscendo il percorso del vino scientificamente possiamo decidere laddove noi non possiamo aggiungere prodotti che in qualche maniera vanno dal fastidio alla salute. Però, Davide, una cosa da sottolineare. In questo percorso abbiamo ottenuto non soltanto vini senza SO2 aggiunta, ma la cosa strana che ci dovrà far scrivere forse qualche pagina di nuova tecnologia, vini migliori. Certo. Quindi è tutta una cosa in corso d'opera che sarebbe un peccato però indicare già come un sostituto della solforosa. Non si aggiunge nulla, nulla, assolutamente nulla. Perfetto. L'SO2 è una sorta di antibiotico per l'uomo, no? Nel caso del vino ha più o meno le stesse funzioni. Noi stiamo cercando di mettere il vino nelle condizioni per conservazione, per nascita, di non prendere l'antibiotico in maniera preventiva. Grazie, rimani con noi. Sentiamo Paola da Milano, una radioascoltatrice. Buongiorno Paola. Buongiorno Davide, sono una collega dal Salone del Mobile. Parecchi colleghi stranieri mi hanno chiesto, anche l'anno scorso non ho potuto farti la domanda, ma come mai avete questa varietà di vini così ampia che non ha nessuno? Ma a che cosa è dovuta? Che terra avete che da paese a paese cambia tutto? Io non so cosa rispondere, gli ho detto forse perché siamo una terra vulcanica, terremotata, abbiamo un sacco di varietà di componenti, non lo so. Siamo una terra benedetta da Dio che purtroppo facciamo di tutto per poterla rovinare, soprattutto i territori, perché questa varietà dipende dalle differenze tra regione e regione, se non altro abbiamo anche prodotti diversi, abbiamo cucine diverse, quindi la diversità secondo me è la nostra forza, ma questo è un discorso che ci svia un po'. Io voglio tornare al tema, Sentiamo Marcello da Roma, un radioascoltatore. Buongiorno Mastello. Buongiorno, senta, io volevo inserirmi nella discussione sui solfiti, in questo senso, che visto che c'è comunque la necessità di mettere i solfiti nel vino, anche se c'è ormai questa tendenza a non metterli più, penso che i solfiti nel vino verranno sempre messi, però che venga indicata in etichetta la percentuale dei solfiti, in modo tale che, perché attualmente l'etichetta contiene solfiti, è obbligatorio soltanto quando il vino contiene, mi sembra, oltre una certa percentuale, mi sembra 10 mg. Certo. Però io vorrei sapere, il consumatore vorrebbe essere sapere, oltre a che il vino contiene più di 10, ma quanti ne contiene, in modo tale che mi posso orientare verso il vino che contiene meno solfidi degli altri. Bene, la ringrazio. Allora, io ricordo il numero verde 800 24 00 24. Io giro questa domanda a Marco Tebaldi, che rappresenta l'associazione Free Wine, e oltre a questa gli faccio una domanda un po' provocatoria a Marco Tebaldi. Senti Marco, ma vedendo che ormai tutti parlano di senza solfiti, Free Wine, cioè ha ancora un ruolo o non ha un ruolo? Mi rendo conto che è molto provocatoria la mia domanda. Buongiorno a tutti. Salve Davide, grazie per le domande, anche quelle provocatorie. Innanzitutto, visto che il tema della giornata è se il vino senza solfiti è trendy, io la ribalto ulteriormente chiedendo se il benessere dei consumatori sia qualcosa che può in qualche modo passare di moda. Non credo proprio, e con questo credo di aver risposto anche al senso di esistere di chi, come il progetto Free Wine, persegue sulla via scientifica e tecnologica la riduzione dei solfiti nei vini e degli allergeni di cui hanno parlato gli interventi precedenti. Ha ragione Cottarella a ricordare che la conoscenza, la scienza e la tecnologia sono la guida unica per non scadere in, come dire, fenomeni ideologici che spesso non hanno un riscontro poi concreto. Anche i consumatori che hanno chiamato mi sembrano piuttosto chiari nelle loro visioni, chi vuole sapere quanti solfiti ci sono dentro con precisione, chi ha maturato le proprie, diciamo, percezioni basate sul consumo, direi che lo dicono forte e chiaro, deve essere oggettiva questa affermazione. E invece a Vinitaly, visto che la trasmissione tratta e prende spunto proprio da questo, si sono secondo me anche moltiplicate tutta una serie di espressioni differenti, perché è trendy, perché forse fa vendere un po' di bottiglie in più, ecco. Però concludo dicendo che soprattutto deve essere buono il vino, certo, al di là di essere senza solfiti. Certo, certo, sono d'accordo con te su questo. Grazie, rimani con noi, sentiamo Claudio da Iglesias. Buongiorno Claudio. Buongiorno, io saluto tutti, vorrei intervenire perché a livello amatoriale io faccio il vino anche con altre persone, con mio suocero, e diciamo io aggiungo pochissimi solfiti e comunque il vino mi dura un anno, diciamo, intero, arriva anche all'anno successivo. Invece chi non gli mette i solfiti, proprio zero, o comunque tiene quelli che ha l'uva di suo, arriva luglio, agosto e poi raramente va avanti, a volte sì, a volte no, si rovina. Volevo sapere se anche per questo motivo vengono aggiunti solfiti. Senta Claudio, le faccio una domanda e poi faccio rispondere a Cottarella. Volevo chiederle, ma i suoi ospiti e lei stesso, la sua famiglia, quando bevete un paio di bottiglie di questo vino siete tutti tranquilli, non avete mal di testa? No, guardi, io a volte vado a pranzo a casa di questa persona che non aggiunge solfiti, porto il mio vino, beviamo la stessa quantità, sarà perché io ne metto poco, anche su quello consigliato ne metto anche meno, e niente, se non esageriamo col bicchiere del vino abbiamo lo stesso, stiamo bene tutti e due, cioè non cambia niente. Certo, ma mi sembrava che prima Cottarella avesse spiegato esattamente cosa servono i solfiti, però gli voglio chiedere se vuole aggiungere qualcosa anche a quanto ho sentito, Riccardo. Sì, è naturale l'osservazione dell'ascoltatore che senza solfiti logicamente i vini vanno incontro a dei problemi di ossidazione, di puzze, di difetti naturali dovuti all'attività dei miliardi di organismi che stanno all'interno del vino. Ma questo è stato sempre così, da che non pensa che a scuola il mio professore chiamava la solforosa un male necessario, quindi vi spiega un po' tutto quello che era la teoria. Oggi però si possono raggiungere, sottolineo, non grazie al fare vino una volta, anzi tutt'altro, alla conoscenza che la scienza ci mette a disposizione, le dosologie che questi vini, senza esso due, specialmente i rossi ma anche un po' i bianchi, durano tranquillamente quanto gli altri, con una integrità del frutto addirittura superiore. Ma ripeto, fare i vini con questo sistema è molto più scientifico e tecnologico che farli aggiungendo solforosa. Grazie a Riccardo Cottarella, grazie, a presto Riccardo. Marco Tebaldi, volevo chiedere, Free Wine, per tornare a Free Wine, quali sono i controlli che voi fate per, diciamo, giustificare questa etichetta? Allora, Free Wine è dotato di un proprio disciplinare, misuriamo ovviamente il contenuto in solfiti, che è il primo degli allergeni presenti nel vino, di cui stiamo giustamente parlando oggi. Ce ne sono purtroppo degli altri, molto raramente si riscontrano le cosiddette ammine biogene, sottolineo molto raramente, però meritano di essere a loro volta controllate. Devo dire che nelle fermentazioni spontanee, nelle fermentazioni meno controllate, è più frequente avere questo genere di problematiche, ed è qui che, ripeto, la scienza e la tecnologia ci può dare un grosso aiuto. Purtroppo devo anche dire che la scienza e la tecnologia a volte vengono confuse con stregonerie o diavolerie, come sono state definite prima, e purtroppo c'è di mezzo la conoscenza, e questa non è una cosa ampiamente disponibile, però il consumatore misura su di sé il risultato. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare dell'argomento, e io ho detto che cosa succede all'improvviso nelle cantine. Fino a qualche anno fa pareva impossibile che si potesse produrre vini senza solfiti aggiunti, ora invece, come ho detto, mi sembra che veramente le aziende siano tante e il Vinitaly era invaso da queste scritte. Ma sentiamo Eros dalla provincia di Rimini, un radioascoltatore. Buongiorno Eros. Buongiorno Davide, volevo portare così la mia piccola testimonianza. Io in provincia di Rimini gestisco un'enoteca prevalentemente, diciamo, poggiata sulla vendita del vino sfuso. Già da diversi anni, con l'uso dell'azoto, noi abbiamo vini sfusi di qualità anche alla spina, anche sfusi. E l'uso dell'azoto ha rivoluzionato la gestione, diciamo, della conservazione del vino, limitando al massimo, sono d'accordo con l'esperto, l'enologo che diceva non si può definire senza solfiti, ma comunque noi usiamo vini di qualità a bassissimo tenore di solfiti, perché l'azoto, che è un gas inerte, ci permette di conservare il vino e di fare in modo che anche con lunghi tempi di attesa non acetifichi. Si possono evitare, diciamo, i pasticci chimici e i vecchi metodi che si usavano in cantina una volta. Bene, grazie Eros. Sembra appunto che i punti di vendita di sfuso stiano moltiplicandosi in questo paese. Ma torniamo appunto all'argomento così solfiti in prima battuta. Abbiamo con noi Arianna Occhipinti, una produttrice siciliana sicuramente importante ora anche in giro per il mondo, e lei fa parte di questo movimento triple A, appunto, di vini che io definisco cosiddetti naturali, senza mettendo il cosiddetti e non lasciando naturali al 100%. Chiacchierando con lei proprio al Vin Italy, lei mi diceva: ma io un pizzico di solfito e di solfiti li metto e non credo che questa sia una cosa gravissima. Mi diceva anche: mi sembra che questo proliferare di vini senza solfiti sia veramente così da studiare. Perché sta succedendo? Vero Arianna, cosa sta succedendo? Buongiorno Davide, buongiorno agli ascoltatori. Intanto è un piacere ascoltare Maule insieme con il professor Valenti, che tra l'altro è stato mio professore docente universitario. Inizio ad andare d'accordo, comunque condividono le stesse opinioni, perché questo è anche sinonimo del fatto che tanti punti interrogativi negli ultimi anni ce li siamo messi, abbiamo iniziato a studiare l'argomento anche a livello universitario, che ovviamente è giusto avere dei riscontri anche tecnici di quello che diciamo, quindi mi fa molto piacere. Io sì, ti dicevo, un poco di solforosa prima imbottigliamento lo metto, riesco a rientrare sempre in quantitativi minimi, molto di sotto anche dei quantitativi imposti dal disciplinare dell'agricoltura biologica, perché effettivamente poi penso che il processo non debba riguardare solo il momento dell'aggiunta o l'aspetto dell'anidride solforosa, ma il processo quando decidi di fare dei vini più sostenibili, molto legati a questo concetto agricolo di territorio e di massimo rispetto, ovviamente lo devi analizzare al 100%, quindi non è solo la solforosa, ma sono anche tante altre cose. Il discorso solforoso è quello che prende di più, perché è il prodotto che viene definito quello più negativo, più meno salutare, quindi è ovvio che il consumatore si è chiesto di che cosa si parlava, ed effettivamente abbiamo sentito alla radio oggi che ci sono dei consumatori che poi non sanno che cosa sia questa solforosa. Certo. Il punto d'incontro secondo me sta nel fare dei vini che siano effettivamente grandi vini di territorio. Cottarella diceva migliori, sicuramente i vini senza solforosa sono migliori, ma perché rispettano le caratteristiche dei nostri vigneti, quindi le differenze e le grandi diversità che abbiamo in Italia e nel mondo, e questo secondo me forse è l'aspetto più interessante da prendere in considerazione in questo momento, quando c'è questo grande rispetto, questo rigore nei confronti dell'agricoltura e del vino che vogliamo fare. Grazie Arianna. Sentiamo Enzo da Modena, un radioascoltatore. Buongiorno Enzo. Buongiorno, senta, io di solfiti proprio, che io sono un contadino che attualmente metto come il solfo come una volta, quando facevano i nostri antenati e compagnia bella, non ho avuto mai problemi. La possibilità qual è? Che se lei va in Moldavia, prova ad andare un po' in giro, non usano neanche il solfito, perché non hanno neanche la possibilità di comprare questi solfiti. E non ce n'è proprio bisogno, perché il vino si mantiene da sé, già tenendolo tappato, perché ha il suo contenuto, non ce n'è proprio bisogno di metterlo. A che scopo? Quando con la tecnica di oggi guardano di qua, guardano di là, ma quando pare quello che conta è rimanere terra a terra, perché in effetti è il vino che si mantiene da sé. Bene. Non ce n'è proprio bisogno. E loro fanno di qua, fanno di là, hanno fatto addirittura un'industria per mettere i solfiti, ma che pro? non c'è né terra. Bene, andremo a bere tutti i vini in Moldavia allora, Enzo, sicuramente. Beh, bisogna vedere quanto dura, cioè quanto si può mantenere, poi soprattutto se è vino rosso forse sicuramente ha dei vantaggi maggiori. Ma ora abbiamo con noi il professor Lanati, Donato Lanati. Buongiorno Donato. Ciao Davide, buongiorno a tutti. A te voglio fare questa, aggiungere questo argomento. Mi arriva sul sito Gastronauta una nota interessante. Mi dice un navigatore: bisognerebbe fare una distinzione di chi produce vini senza solfiti aggiunti in modo naturale e chi con tecnologia. Secondo te si può fare questa distinzione? No, innanzitutto volevo fare una premessa generale, no? Che in un momento come questo di crisi, anche senza nuovo governo, vediamo che il valore più importante è sempre la salute, no? E questo di non usare i solfiti è un bisogno positivo, e soprattutto il consumatore vuole aver salvaguardata la salute. Comunque bisogna sottolineare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'OIVE ha stimolato da qualche anno tutti i suoi studiosi e ricercatori a trovare il modo per utilizzare meno solfiti senza utilizzare una filosofia interventistica, cioè con l'aggiunta per esempio dell'isozima, di acido sforbico, di metilcarbonato, argento colloidale da una parte, oppure glutatione dall'altra, che in vendemmia si vedono tutte le farmacie assaltate per recuperare questa molecola che non è ancora legale perché è un grande antiossidante e antiradicalico. Il discorso comunque non può essere generalizzato, ma deve essere riferito prima di tutto alla componente varietale dell'uva, perché sono delle uve che proprio come diceva il signore della Moldavia, molto probabilmente non hanno bisogno di solfiti per produrre un vino resistente nel tempo. Mi riferisco a Razzichieli, uva bianca della Georgia vinificata nelle anfore, quando hanno usato mai metà di solfito, ed è un vino che può resistere anni e anni. Ovviamente usano anche i raspi, i tannini delle bucce, che sono di forti antiossidanti, ecco. Ma poi bisogna riferirlo anche all'annata, perché c'è la possibilità di non usare solfiti. Non è una costante non usare solfiti, perché a volte nello stesso vigneto, nello stesso microclima, con le stesse varietà, in annate diverse, troviamo nelle uve acidi idrossicinamici, flavonoli particolari come quercetina, naricetina, canferolo, che sono dei grandi antiossidanti in grandi quantità, che quindi permettono poi dopo il vino di essere messo in bottiglia e di non poter utilizzare solforosa. Magari nello stesso ambiente, in annate diverse, in annate estremamente umide, troviamo addirittura le ocrotossine. E quindi diciamo che questa, io non la vivo, per esempio, questo momento del non solfiti come una moda, un'onda lunga o un'onda di marketing, assolutamente, ma come una grande possibilità di approfondire questo discorso e capire veramente come è fatto il vino e dove e quando ci sono gli antiossidanti. Quindi è stato detto anche prima, bisogna valutare quali sono i punti critici, fare dei controlli e avere anche l'onestà intellettuale, anche da parte di tutti i produttori convenzionali o naturali che siano, a dire: beh, quest'anno posso fare questo vino naturale, o l'altro, se non è abbastanza ricco e non può buttare via tutta la produzione, dire: benissimo, userò in un modo sensato e non esagerato questi antiossidanti, altrimenti devo buttare via tutto, oppure infilerò in bocca al consumatore un vino che fa schifo solo perché ho avuto l'orgoglio di non usare i solfiti. Cioè, voglio dire, ci vuole equilibrio. Certo, certo. Certamente quest'onda, c'è un bisogno che non è dettato dai produttori, ma dal consumatore. Sì, questo è vero. Vuole il rispetto della sua salute, vuole un vino dall'etica trasparente. Dimmi come l'hai fatto, dimmi che cosa ci metti, e io sarò legato a te per tutta la vita, perché mi fai star bene, perché il vino è un piacere. Sì, sono d'accordo che è un'onda, finalmente, che il consumatore comincia, come posso dire, a dettare i tempi. Questo secondo me è un fatto molto importante. Sentiamo Paolo da Padova, un radioascoltatore. Buongiorno Paolo. Buongiorno Davide. Prego. Ascolta, io volevo portare la mia testimonianza, in quanto io sono un operatore del settore enologico e ho introdotto a fine 2011 nel mercato enologico uno strumento per la determinazione della anidride solforosa libera e totale nei vini. E questo per dire che questo tipo di strumentazione richiede un grossissimo investimento per le cantine, e abbiamo avuto un grossissimo successo, circa una ventina di macchine, parlo di un investimento di circa 100.000 euro per la determinazione delle analisi dei parametri tradizionali e libera e totale, e questo secondo me dà l'indicazione che anche chi, e mi riferisco magari alle grosse, grossissime aziende, non hanno la possibilità, proprio per i volumi che trattano, di fare vini senza solforosa, comunque c'è questa attenzione a una misurazione precisa e attenta delle due frazioni che vengono considerate, quella della solforosa libera e della solforosa totale, attraverso investimenti molto importanti. Sì Paolo, mi sembra però che la cosa importante sia questa: abbiamo detto al consumatore che ha dettato i tempi, bene, queste grandi aziende appunto potrebbero benissimo mettere il grado di solforosa che in etichetta che hanno i loro vini, però sappiamo benissimo che questo non è possibile per tutta una serie di normative burocratiche che esistono. Quindi sicuramente ancora una volta forse i consumatori devono fare voce, voce grossa, perché ancora diciamo l'etichetta del vino diventi più trasparente e forse tralasci il gusto di bosco, o il gusto di mela, o il gusto non so di che cosa, che forse il consumatore dovrebbe decidere già di per sé e da solo cosa sono, cosa contengono quei vini dal punto di vista appunto del sapore, del profumo, e dessero questo tipo di informazioni. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare appunto di vino, a parlare di vino senza solfiti. Ricordo numero verde 800 24 00 24. Bene, io ho tenuto dulcis in fondo, come si dice, i due curatori delle due importanti guide, proprio per chiedere a loro, anche a loro, cosa ne pensano su questo argomento. E allora abbiamo con noi Eleonora Guerini del Gambero Rosso, Vini d'Italia Gambero Rosso, e Fabio Giavedoni, del curatore della guida Slow Wine, dello Slow Food. Eleonora, io volevo chiederti questo: cosa ne pensate voi di questa enorme, così come posso dire, ormai arcipelago che si vedeva nel Vinitaly, di tutti i vini senza solfiti scritto in grande e cubitale? Ecco, cosa ne pensi? Allora, per dire, innanzitutto buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Per dire una banalità, direi che va tutto bene, chiaramente tutto ciò che rende il vino più salutare è auspicabile. Questo non significa che il consumatore debba accettare il difetto, siccome come è stato detto, ma forse non troppo chiaramente, e la solforosa è stata aggiunta tradizionalmente per evitare l'ossidazione del vino, va benissimo non usarla se possibile, va benissimo usarla almeno possibile quantomeno. L'importante è che poi il vino non sia ossidato, cioè l'importante è, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, non costringere il consumatore a bere un vino difettoso. E questa è l'unica cosa che un po' mi spaventa di questo movimento, cioè l'idea che poi, ideologicamente parlando, si insinui l'idea che basta che sia naturale, va tutto bene. Ecco, questo noi non lo appoggiamo per niente. Sì, infatti ho visto anche un tuo pezzo significativo poco tempo fa, quindi mi sembra che la tua posizione sia ben precisa. Sentiamo invece Fabio Giavedoni. Buongiorno Fabio. Sì, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti. Avevo chiesto, forse non eri ancora in linea, avevo chiesto. Ho sentito. Prego. Ha detto Eleonora. Ma guarda, intanto la tua osservazione è giustissima. Anch'io mi sono accorto di quanto quest'anno al Vinitaly fosse presente questo zero solfiti ovunque. In parecchi casi è un percorso che i produttori stanno facendo in una maniera molto rigorosa, come Angiolino Maule prima. E in altri casi mi sembra un'operazione della serie non so cosa dire, quindi quest'anno al Vinitaly dico questa cosa qua per distinguermi un po' dagli altri, no? Quindi dividerei un po' le comunicazioni. Poi sai, sul discorso dei solfiti, ecco, mi è capitato da una parte di vedere appunto tutte queste aziende, e poi mercoledì sera, l'ultimo giorno del Vinitaly, andare a cena con una persona che non conoscevo e che mi ha chiesto di bere vino rosso perché a lei il bianco dà fastidio per la presenza dei solfiti eccetera. In effetti questo è sicuramente una questione importante. Dopodiché sullo zero solfiti, o quantomeno sulla riduzione o il non utilizzo dei solfiti aggiunti nel vino, due cose. C'è chi ha un approccio scientifico molto serio, come Tebaldi, o anche sentito prima come Lanati, no? Ovvero proviamo dopo 2000 anni, perché i solfiti ce lo ricordiamo, anzi 3000 anni, hanno cominciato a metterli gli antichi greci, no? Nel vino, a capire se la scienza ci aiuta ad andare oltre a questo elemento per conservare per bene i nostri vini. E qui ci sono varie cose, c'è chi mette sostanze che sarebbe curioso capire se fanno più o meno male. Ecco, questo è il punto, questo è il punto. Perché anche dai disciplinari del biologico addirittura sono, è possibile, e a maggior ragione dell'enologia tradizionale, immettere sostanze che, io avrei i miei seri dubbi che siano, che facciano meno male dei solfiti. Dopodiché, ad esempio, tutto il disciplinare di Free Wine di Tebaldi invece presenta tutta una serie di sostanze che sicuramente male non fanno, perché sono tutti estratti vegetali, tannini del rovere, i tannini delle bucce, i tannini, le protoantocianidine, mi penso di averlo detto bene, che vengono dai vinaccioli, eccetera, no? Quindi tutte sostanze naturali. Ora, da questo punto di vista, però, da critico mi viene da dire, ma quanto incideranno sul sapore del vino? Ecco, questo è vero che possono mantenere quello che è l'obiettivo principale di chi vuole abbassare il livello dei solfiti, ovvero che il proprio vino non faccia male ma abbia un'aderenza col territorio. E qui mi sarei proprio curioso, spero che Tebaldi prima o poi risponda, di avere un incontro con lui per assaggiare appunto i vini con o senza queste sostanze, per capire quanto ne modificano il profilo organolettico. Bene. L'altra parte, chi proprio non usa solfiti, no? Ecco, lì io non lo so, io sono più della teoria che è un male necessario, l'ha detto Cottarella prima, ma lo dice anche Josko Gravner, no? E i solfiti sono un male necessario, bisogna dosarli molto bene, eccetera. Chi non li usa proprio, ma non lo so, lì do ragione a Eleonora, bisogna poi vedere qual è il prodotto finale, come esce questo vino. Te la dico un'ultima battuta, io ho una bambina di 6 anni a cui non sono mai state fatte le vaccinazioni, quindi ho una bambina, 0 vaccini, no? Però l'anno scorso, quando dal nonno in campagna si è ferito un piede, io l'antitetanica gliel'ho fatta. Bene, grazie Fabio Giovedone, sei stato chiarissimo. Io voglio tornare a Eleonora, che ha fatto sicuramente per l'ultima guida tantissime degustazioni. Ecco, di fronte a queste degustazioni sui vini che si dichiaravano senza solfiti, hai trovato qualcosa di particolare, Eleonora? Ma onestamente sul numero, allora diciamo che onestamente ci sono vini che traballano sia nel mondo naturale che nel mondo convenzionale, per cui molto spesso si trovano degustando vini cosiddetti naturali, vini che traballano sia per problemi di ossidazione, quindi di scarsità di solforosa, sia per problemi di spunto, a volte, se no diciamo di volatile, via, a volte addirittura spunto, ma molto molto spesso di volatili molto molto alte. Nei vini, diciamo, convenzionali anche si trovano dei difetti. La cosa che fa un po' impressione è notare quanto non ci sia disponibilità, giustamente aggiungerei, ad accettare il cosiddetto difetto dei vini convenzionali, e quanto invece io noti che c'è una predisposizione a dire vabbè, ma questo è naturale, è normale che il vino non sia proprio, come dire, perfetto, ma poi perfetto intendiamoci, perfetto io non intendo legno, vaniglia, fruttatone, bombolone, per carità, cioè se il vino è ridotto, cioè, ci sono dei vini che per tradizione, perché i produttori li fanno in un certo modo, sono diciamo più difficoltosi da affrontare per un consumatore medio, no? Io penso appunto ai vini molto ridotti, inizialmente uno dice ma cos'è sta puzza? Poi uno sa, il vino si libera, eccetera, eccetera. Quindi non intendo con la perfezione il vino fatto, finito, inteso proprio il prodottino pensato e disegnato per piacere Beh. All'uomo che piace. Però allo stesso tempo, ecco, il difetto, no? Io non sono disposta a dire, ecco, siccome questo è naturale, vabbè, via, è un po' andato. Ti devo interrompere perché la musica mi dice che è finita, comunque abbiamo capito benissimo il tuo pensiero. Grazie Eleonora, mi spiace per Andrea da Carboni e Pietro da Roma che non li posso fare intervenire. Appuntamento domani con il riposo del guerriero, buon weekend a tutti da Davide Paolini.